Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 421, nella quale parleremo di isole velenose, falsi santuari, ricce e pellicce. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Giorno dopo la festa di San Valentino, a Sciacca, in provincia di Agrigento, sono stati trovati corpi esanimi di 30 cani nei pressi della spiaggia della città, tutti uccisi, a quanto pare, con polpette avvelenate abbandonate lungo le strade. La morte è stata causata da un potente insetticida di quelli usati abitualmente come disinfestanti in agricoltura e che sono in vendita in tutti i consorzi agrari. Sulla vicenda è intervenuto anche il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che vuole che la regione siciliana si costituisca parte civile in un eventuale processo ai responsabili e che ha annunciato per la prossima settimana una riunione con autorità veterinarie e associazioni animaliste per affrontare il problema del randagismo nell'isola. Nei giorni scorsi, sempre in Sicilia, ma nel Trapanese, 4 cani erano stati avvelenati a Santa Ninfa, mentre a Campobello di Mazara un cane è stato impiccato e un altro scuoiato. Roberto Marchesini, etologo, filosofo, veterinario e autore di numerosi libri sulla relazione uomo-cane, ha scritto in un comunicato che la strage di Sciacca è l'esito di scelte istituzionali e politiche scellerate sul tema del randagismo. Non agendo con coerenza e non affrontando il problema a 360 gradi, scrive Marchesini, si proclama la messa a morte dei cani in un susseguirsi di violenze senza fine. Le ricette in campo per affrontare il complesso tema del randagismo sono molte, si va dalle sterilizzazioni di massa alle deportazioni nei canili, di cani che però, vuoi per il numero ingente, vuoi per la indole randagia, non saranno mai in grado di venire adottati e che quindi sono destinati a vivere una misera vita in gabbia. Ma negli ultimi anni una nuova cultura sta emergendo anche tra gli addetti ai lavori e sta prendendo forma una nuova proposta di convivenza negoziata tra gruppi di cani liberi e cittadini. Si tratterebbe di una sorta di diritto dei cani ad auto-organizzarsi e vivere al di fuori delle pareti domestiche umane. Vedremo se la Sicilia, dopo questo scioccante episodio, vorrà e saprà fare da apripista anche per le altre regioni italiane. Thank you. autorità ad approvare il matrimonio tra persone dello stesso sesso potrebbe essere anche la prima al mondo a vietare la vendita di pellicce animali. Succede a San Francisco, dove una mozione che deve essere discussa prevede di bandire la vendita, l'offerta a saldo, l'esposizione in vetrina, il commercio, la donazione di ogni prodotto di abbigliamento o accessorio che utilizzi il pelo di origine animale. Per me è fuori moda prendere la vita di un'altra creatura vivente con il proposito di indossare la sua pelle, la sua pelliccia, ha affermato questo il supervisore Katie Tang, proponente di questa legge. Sono grata, dice Tang, di avere l'opportunità di parlare a difesa degli animali e di affermare che la pelliccia degli animali non è in vendita. L'ordinanza è un elenco dettagliato non solo delle categorie da vietare, ma anche delle implicazioni dell'industria americana legata all'allevamento e allo sfruttamento degli animali destinati a diventare capi di abbigliamento. Se l'ordinanza diventerà legge, il mercato delle pellicce subirà un altro duro colpo. Il 2017, infatti, è stato forse l'anno più emblematico nel cambiamento della percezione dell'utilizzo del mantello degli animali. Grandi marchi come Gucci, Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Vivienne Westwood e Giorgio Armani hanno tolto le pellicce dalle loro collezioni. E paesi come la Germania, l'Austria, la Croazia, l'Inghilterra, la Norvegia e dal 2019 anche la Repubblica Ceca hanno già deciso di vietare nei loro territori gli allevamenti di animali da pelliccia. L'esito del voto di San Francisco quindi sarà fondamentale non solo per quella specifica città, ma per il mondo intero. Entrerà infatti nel vivo uno dei dibattiti più caldi riguardanti l'ambiente della moda. L'amore per gli animali e il desiderio di vivere un'esperienza a contatto con la natura più selvaggia. Si tratta dei falsi santuari, riserve di centinaia di ettari distribuite a macchia d'olio su tutto il continente africano che accolgono ogni anno migliaia di volontari in cerca dell'esperienza della vita. Accudire cuccioli di leoni e altri animali selvatici che, orfani dei genitori uccisi dai bracconieri, hanno bisogno di cure prima di essere rilasciati in natura, quella natura dalla quale provengono. Ciascun volontario paga, pensate, fino a 2.000 euro per andare a lavorare per una o due settimane a contatto con questi preziosi animali selvatici. La realtà però è molto diversa. Dietro ai falsi santuari si nascondono infatti veri e propri allevamenti di leoni, leonesse, giaguari e tigri destinati a essere venduti alle riserve di caccia a pagamento. Nessuna salvaguardia della specie, nessun intento ambientalista. I falsi santuari producono prede o, se preferite, vittime. I cuccioli che i volontari coccolano e allattano con i biberon perderanno, proprio a causa del contatto con l'uomo, il loro istinto alla difesa e non potranno mai più essere rimessi in libertà. Saranno quindi venduti a riserve di caccia dove diventeranno facili bersagli per cacciatori di trofei, oppure finiranno nel mercato nero delle ossa e delle pelli per farne falsi medicinali o suppellettili per la casa. Centinaia di cacciatori occidentali sono pronti a sborsare fino a $50,000 per poter sparare a un leone semi-addomesticato. Si può stimare che il giro d'affari del settore superi i $20 milioni l'anno, più di una catena alberghiera. Circa 1.000 leoni vengono cacciati ogni anno in Sudafrica, spiega Chris Mercier, fondatore della ONG CACH, Campaign Against Canid Hunting, in Africa da moltissimi anni per denunciare il fenomeno. La maggior parte dei cacciatori proviene dagli Stati Uniti, ma sono coinvolti anche gli europei, compresi gli italiani. Un gigantesco mercato fatto che funziona anche grazie allo sfruttamento di questi volontari. Queste false riserve sono abilissime nel creare siti web che diano l'impressione di avere a che fare con santuari veri e propri e non con allevamenti di animali in cattività, sono molto astuti nel respingere le domande dei volontari più sospettosi e li tranquillizzano dicendo che una volta cresciuti i cuccioli verranno rilasciati in libertà. Il giro di soldi è enorme, ci sono delinquenti in questa terribile industria, le stime degli ambientalisti locali parlano di almeno 8.000 leoni tuttora in cattività per essere destinati alle riserve di caccia a pagamento. Ci spostiamo in Piemonte, dove alcuni anni fa un cucciolo di riccio di soli 25 grammi ha incontrato un veterinario e gli ha cambiato la vita. Abbiamo intervistato Massimo Vacchetta, il veterinario piemontese che ha fondato il Centro Recupero Ricci La Ninna, un centro dedicato esclusivamente a questi piccoli animali. Massimo Vacchetta è il protagonista e coautore, assieme ad Antonella Tomaselli, del libro 25 grammi di felicità, uscito per Sterling e Kupfer nel 2016, un bestseller già tradotto in numerose lingue straniere. Questo piccolo riccio, un cucciolo che incontrai nell'ambulatorio di un collega proprio in un momento di crisi della mia vita e che veramente fu determinante, no? Stimolò in me un senso profondo di compassione. E quindi da lì partì questa idea di aprire un ospedale per i ricci, perché sentivo che c'era la necessità di aiutare i più deboli, i più indifesi, quelli che non hanno voce, quelli che sono così un po' dimenticati da tutti. Era un riccetto di pochi giorni di vita, un riccetto orfano, un lattante, era stato trovato da una signora in cortile, ce l'aveva portato ed era un cucciolo che andava allattato. Io praticamente ogni 2 ore le davo questo latte, un latte per cuccioli di cane, e praticamente era stato anche veramente un'impresa, no? Un lavoro molto impegnativo, ma che mi aveva coinvolto, perché io sentivo che salvare quella piccola vita avrebbe salvato me stesso. Cioè, quindi non sono io che ho salvato lei, ma alla fine lei che mi ha ridato la gioia di vivere in una fase della mia vita oscura in cui avevo perso l'entusiasmo della vita. Invece vedere quella creaturina così fragile, così piccola, ma con questa grande voglia di vivere, ha contagiato anche me. Io venivo da questa professione di veterinario, così un po' un veterano specializzato sui bovini, ed avevo anche un po' il cuore un po' corazzato, ne avevo visti di tutti i colori nella mia vita in 24 anni di professione, E quindi ecco, diciamo che avevo un po' fatto un po' il callo al dolore, no? Quindi non un'insensibilità, ma forse una corazza protettiva. E questa corazza è andata in frantumi davanti a questo piccolo riccio. E così c'è stata questa trasformazione in cui, ecco, è nato in me questo grande senso di compassione che poi mi ha fatto vedere la vita sotto una luce diversa, no? Tutte le creature, non solo i ricci, ma le persone, gli animali da reddito che io appunto vedevo in un certo modo, ma che poi ho imparato a vedere sotto questo nuovo aspetto. E quindi questo è stato molto positivo per me perché mi ha dato veramente una ragione di vivere e di fare qualcosa di concreto per lenire la sofferenza di chi non ha aiuto, di chi non è considerato, no? E questo è stato per me un grande arricchimento spirituale. Poi ho capito che c'era questa necessità, gli animali selvatici sono spesso in difficoltà causata dall'uomo, il 95% dei problemi degli animali selvatici è provocato dall'uomo. E quindi ho deciso di fare qualcosa di concreto, anche perché io ho sempre comunque amato la natura e alla fine questa creaturina è come se mi avesse tirato dentro questa impresa di cercare di controbilanciare il danno che l'uomo fa alla natura e il dolore che l'uomo provoca agli animali, che io ho visto in prima persona perché ho lavorato sui bovini per tanti anni, ho lavorato anche nei macelli, quindi ho visto la sofferenza, ma non l'ho mai così percepita veramente, no? Quindi non c'è mai stata una grossa empatia, ero molto più egoista, ero incentrato sulla la mia vita, ruotava attorno alla carriera, essere un veterinario di successo, avere una bella casa, avere tutti quei cliché, una macchina grande, no? Belle vacanze, ecco, ma non veramente non avevo mai pensato alla loro condizione di sofferenza. Che è grande, devo dire che è grande. Contattai il responsabile del CRAS di Centro Recupero degli Animali Selvatici di Vernezzo, il quale accolse così la mia proposta con grande entusiasmo e quindi iniziò questa collaborazione. Noi diventammo una parte di questo centro più grande, specializzato sui ricci, e quindi da lì iniziarono ad arrivare tanti animali, tanti ricci in difficoltà, perché comunque l'uomo crea un sacco di problemi, dagli incidenti stradali, dal giardinaggio, li tagliamo con i decespugliatori, li bruciamo le sterpaglie, bruciamo i cumuli di fieno, di foglie quando facciamo il giardinaggio, usiamo molti veleni, erbicidi, pesticidi e questi animaletti diventano praticamente vittima facilmente della nostra incuria, no? Quindi basterebbe anche fare attenzione, basterebbe anche realizzare che esiste qualcun altro che già vive ai nostri margini, perché l'uomo ha spinto le specie animali ai margini della sua esistenza, quindi fanno già delle vite molto difficili. Quindi se noi facessimo più attenzione, avessimo un po' più cura della biodiversità, ecco, il mondo sarebbe molto meglio. Rischiamo di perdere tutte queste specie. I ricci sono una specie comunissima, ha vissuto per migliaia di anni su questo pianeta, ma rischia di sparire a breve termine perché l'uomo appunto crea un sacco di problemi. L'amore ai tempi del crudismo tra le fredde lande dell'Islanda. Parliamo di una coppia, Alex Sommers, che è un musicista e compositore statunitense, ma che vive in Islanda, e del suo compagno Jonsi, la voce del gruppo dei Sigur Rós. Sono vegani crudisti, hanno fatto molte collaborazioni insieme, non solo col gruppo dei Sigur Rós. Tra l'altro, Sommers è anche un compositore di colonne sonore. Una delle ultime edizioni del serial Black Mirror porta la sua firma, e non solo quello. E insieme hanno fatto un album che si chiama Rise Boy Sleep. È un album molto etereo e abbiamo ascoltato qualcosa da questo album ambient tra un servizio e l'altro. Per avere un'idea del lavoro che fanno insieme, non ascoltiamo un brano da quest'album ambient Rise Boy Sleeps, bensì dall'album solista che ha fatto Jones, Animal Arithmetic, dalla voce di Jonesy e dalla produzione di Alex. Buon ascolto. Sounding wolves, colorful fireworks. Every time, everyone, everything's full. Sulla rivista Current Biology è stata pubblicata una ricerca sugli oranghi del Borneo. Gli esperti hanno raccolto materiali per 16 anni, sia sulla terraferma che attraverso l'uso di elicotteri, e hanno così potuto mappare i numeri e le posizioni dei nidi che gli oranghi hanno costruito tra gli alberi. I nidi sono utili per formulare ipotesi sulle dimensioni delle popolazioni di orangutan, dato che gli animali sono estremamente sfuggenti. Gli ambientalisti hanno identificato 64 gruppi distinti di oranghi nell'isola, ma pensano che solo 38 comprendano più di 100 individui, che è il numero minimo vitale per un gruppo. Caccia, brutali uccisioni, perdita dell'habitat, alla cui origine è soprattutto l'industria dell'olio di palma. Queste sono le cause all'origine del vero e proprio massacro degli oranghi nel Borneo, dove negli ultimi 16 anni sono stati uccisi circa 150.000 animali. L'orango, primate tipico della Malesia e dell'Indonesia, è considerato in pericolo critico dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. La popolazione di queste grandi scimmie è quotidianamente decimata dai cacciatori o dagli agricoltori, che le uccidono a colpi di macete quando si avventurano nelle piantagioni. Gli incontri tra persone e oranghi avvengono spesso perché la deforestazione selvaggia, praticata per far posto alla palma da olio, priva gli animali delle loro fonti di sussistenza. Un team internazionale di ambientalisti ha stimato che il numero di oranghi rimasti nel Borneo si attesta ora tra i 70 e i 100.000, il che significa che la popolazione si è più che dimezzata durante il periodo di studio, che va dal 1999 al 2015. Senza nuovi sforzi per proteggere gli animali, i numeri potrebbero crollare di almeno altri 45.000 esemplari nei prossimi 35 anni. Ma il declino potrebbe anche essere più drastico, perché la previsione degli ambientalisti si basa solo sulla perdita di habitat e non include le uccisioni. Le foreste del Borneo sono state progressivamente frammentate da piantagioni e infrastrutture. Pensateci quando siete a valutare gli ingredienti dei vostri dolcetti. I generi coloniali ed esotici, tra questi in particolare l'olio di cocco e l'olio di palma, sebbene vegetali, non possono certo definirsi cruelty free. L'unica cucina veramente cruelty free è quella che vi proponiamo da anni all'interno della rubrica settimanale Il Pasto Gentile, la rubrica di cucina curata da Gabriele Palloni, autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton, che potete trovare in libreria o ordinare via internet. sentiamo l'audio proposta di questa settimana. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Sabato 17 febbraio ho avuto il piacere di preparare la cena dell'evento 25 grammi di felicità, durante la quale Massimo Vacchetta ci ha raccontato la sua esperienza e presentato il suo libro. Come di consueto, con il mio fidatissimo Vegan Team abbiamo studiato un menù ad hoc. Questa volta l'intento era quello di trasferire il concetto dei 25 grammi di felicità alle diverse portate, creando un menù degustazione con piccoli bocconi che facessero sperimentare una sensazione piacevole al gusto e alla vista degli ospiti. Ci siamo riusciti? Beh, a vedere i piatti vuoti che sono tornati in cucina, direi proprio di sì. Per questo vi racconto uno degli 8 piatti preparati. La carrozza da passeggio. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 ml di latte di soia non zuccherato né aromatizzato, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 20 g di amido di tapioca, un cucchiaio di lievito alimentare a scaglie, 8 fette di pan carré, 100 g di farina di ceci, 20 g di farina tipo 0, 200 g di pan grattato, sale, olio per friggere e 8 stecchi di legno per gelato. Fate sciogliere l'amido di tapioca con il latte di soia. Aggiungete l'olio extravergine di oliva, il sale e il lievito alimentare. Versate in una casseruola e fate cuocere a fuoco medio-basso mescolando con una frusta. Quando l'amido si addensa e il composto diventa elastico e filante, togliete dal fuoco. A parte, preparate una pastella mescolando le due farine e aggiungendo acqua fino ad ottenere un composto liscio non troppo denso. Aggiungete il cucchiaio di olio extravergine, aggiustate di sale e lasciate riposare. Nel frattempo, farcite le fette di pan carré con la mozzarella vegan. Private il pane dalla crosta, sovrapponete due fette e tagliate a metà formando due rettangoli. Immergete nella pastella facendo scolare quella in eccesso e passate nel pan grattato. Quindi immergete in olio bollente. Fate dorare su entrambi i lati, scolate facendo asciugare su carta per frittura. Infilate lo stecco del gelato e passate una presa di sale sulla superficie prima di portare in tavola. E ricordiamo che nel nostro blog www.restiamoanimali.it potete trovare in audio ma anche in forma di testo scritto quasi 200 ricette cruelty free. Basta digitare nell'apposito campo di ricerca il titolo della rubrica Il pasto gentile. Siamo in chiusura, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 422 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.